24 mattino. Manca Agazzim. Ah? La gazzimma. Cos'è, cos'è la gazzimma? No. Non te lo voglio dire, quella okay, è la gazzimma. No. Allora, la cazzimma era Cavanacciuolo e arriva un messaggio di Paolo Borrelli su Facebook. Telese che fa le sue leccate a Di Maio, nessuna obiettività né spunti. Ma io non faccio nessuna leccata, io leggo le notizie, qualcuno dice che santifico Di Maio, qualcuno dice che lo demolisco. No, semplicemente leggiamo le notizie, le commettiamo insieme, ci sono luci e ombre, chi vuole qui Mao Zedong non sarà soddisfatto. Allora i vostri messaggi al 349-238-6666, il numero verde 824-0024. Saluto il gattone che è con noi. Qui c'è solo Miao Zedong, ecco. Miao Zedong. No, non ne puoi dire queste cose, Oscar, hai una reputazione. Sentiamo il primo ascoltatore che ci sta chiamando. Pronto, chi sei? Ah, non c'è ancora, okay. Lo stiamo collegando, bene. E, allora, dunque, fra poco avremo Giorgia Meloni. Oscar, qual è la tua notizia del giorno? La mia notizia? No, io mi collego a quello che dicevi, ti do la mia opinione. Sono contro l'ordine dei giornalisti, poiché esiste, non ci posso fare niente, sono in minoranza, quelli che la pensano come me. Però io ti dico, se c'è, invece che dare la reazione che ho visto dare un suo rappresentante a Grillo, molto semplice, prendiamo Grillo sul serio, ci vuole vomitare, lo portiamo in tribunale e si vede. Non prendiamolo sul serio, ma altrimenti, un po' lo possiamo sfottere. Altrimenti lo sfottiamo. Però mettersi a fare le battutine, ah, tu vai, mi fai andare per traverso, anche lo trovo una cosa pessima, cioè proprio pessima. Allora, Giorgia Meloni con noi al telefono, eccola collegata, sta Buongiorno. Per iniziare la festa di Atreju, che è l'appuntamento annuale del partito della Meloni, Fratelli d'Italia. Purtroppo c'è con noi Michele Santoro, è molto dispiaciuto con lei, Giorgia. Allora, buongiorno intanto, buona mattina. Buongiorno. No, io mi aspettavo un invito, so, per quest'anno almeno. Vabbè, l'abbiamo fatto in altre occasioni. No, quest'anno purtroppo noi come Atreju abbiamo una versione un po' più risicata, un po' più ristretta, diciamo, nel tempo. Di però insomma il tempo di invitare Minniti ce l'avete avuto, quindi insomma una strizzata al governo, no? Insomma, diciamo che prego. La vostra opposizione poi si vede quando voi, poi. Vabbè, comunque. Vabbè, no, è arrabbiato. La nostra opposizione penso che non si possa dire niente, credo che saremo gli unici che sopporranno persino alla legge elettorale. Ma posso chiedere, Telese, una domanda, ti rubo il mestiere un attimo, ma questo Ius Soli, poi, insomma, la vostra posizione, perché quella di Salvini è piuttosto chiara. Però Fratelli d'Italia, insomma, sento, troppo soft. Ma sento opinioni diverse. Ho sentito anche la dichiarazione di La Russa. Ah, guardi, non so che dichiarazione ha sentito di La Russa. Segnalo che per primi abbiamo lanciato la raccolta di firme per il referendum eventualmente abrogativo se la legge passasse. Abbiamo già raccolto 60.000 firme, che siamo stati il partito che ha portato in piazza tutti i movimenti che volevano dire di no allo Ius Soli. E quindi, no, insomma, ma è uno scherzo, perché pensavamo che non ci fosse un partito che ha una posizione più sfumata, più netta di Fratelli d'Italia. Ah, però... scusate, no, vabbè, non avevo capito la battuta. No, era una battuta per contrario. Siamo abbastanza contraria. No, ma perché Meloni pensava veramente che ci fosse in giro una dichiarazione soft di La Russa su Ius Soli? No, no, impossibile. Che ne so, con La Russa non si può mai sapere. Quindi, però, diciamo, no, ecco, le dichiarazioni della Russa che ho sentito sul tema mi parevano abbastanza chiare. Allora, del resto le mie. Invece c'è una dichiarazione della Russa vera che abbiamo letto sul Corriere della Sera, e dice: a noi ultimo piace moltissimo, lo abbiamo già candidato alla presidenza della Repubblica, ci piacerebbe anche portarlo in Parlamento. Poi c'è una sua dichiarazione più prudente, perché il leader è sempre più prudente, ma potrebbe convenire sulla Russa, sul fatto che vi piace e che non vi dispiacerebbe portarlo in Parlamento? Ma guardi, ho ribadito ieri la mia, diciamo, totale stima nei confronti del capitano Ultimo, una persona, tra l'altro parlando di Atreju, una persona che noi abbiamo premiato ad Atreju anni fa, come tante altre persone, diciamo, che secondo noi rappresentano, insomma, persone che si sono prodigate, che hanno fatto qualcosa di bello per l'Italia, che possono rappresentare un esempio. Il fatto che sia sotto inchiesta non è un ostacolo per voi? Ma guardi, io penso, no, per me non è un ostacolo, e in ogni caso, voglio dire, francamente, tra quello che ha arrestato Torina Renzi e compagnia cantante, diciamo che non ho parecchi dubbi su da che parte stare. Ho capito. Diciamo, tra quello che ha arrestato Totò Riina e quelli che non hanno avuto il problema a far pagare ai risparmiatori le male gestioni delle banche degli amici degli amici, insomma, non ho difficoltà a sapere da che parte. Questo è un titolo per i giornali di domani. Oscar, è un po' come Valpreda, che fu candidato, no? Mentre era sotto indagine, divenne in qualche modo un eroe per una parte dell'Italia, l'inquisito di Piazza Fontana. Vabbè, vedremo, perché io poi ho un'idea delle istituzioni, anche se invecchiando ho capito che ci devo rinunciare, in cui carabinieri e magistrati non alzano in maniera reciproca gli uni contro gli altri delle cortine di fumo, perché così non si capisce più niente. Troppe inchieste, in troppe inchieste avviene, io mi metto nei panni di chi è a casa e chi è a casa oramai dice vabbè, tanto robe loro, non si capisce mai, quando oltretutto ci sono indagini sulla più grande centrale d'acquisto pubblica italiana, chi pagava mazzette, perché comunque uno ha patteggiato per aver accettato soldi, e politici di mezzo. Ecco, questo mi dispiace molto. Anch'io devo dire, non ho dubbi, se tra colonnello, perché l'hanno promosso De Caprio, cioè ultimo, e tanti altri, chi ha fatto il più pretale, però insomma vedremo. La domanda che faccio a Giorgio Meloni, chiedo scusa perché qui ormai facciamo le interviste finte anche noi oramai, come avrei capito, ma ieri mi ha colpito una frase di Salvini che riguarda la coalizione, cioè i rapporti tra voi e ovviamente di ciascuno di voi con Berlusconi, perché Salvini con un po' di entusiasmo ieri sera ha risposto: ma Berlusconi si dia molto da fare, deve prendere molti voti, sennò io, cioè Salvini, come faccio a fare il presidente del consiglio? Ma è una butade o come stanno le cose nei rapporti tra voi tre? Ma guarda, le cose stanno che c'è sicuramente molto lavoro da fare per tutti, mettiamola così, nel senso che sicuramente c'è una domanda nel popolo italiano di una proposta politica per le prossime elezioni che sostanzialmente dica: rimettiamo al centro il nostro interesse. I nostri interessi vuol dire la difesa del nostro lavoro, delle nostre imprese, del nostro made in, dei nostri confini, delle nostre famiglie, della nostra identità, cioè l'esatto contrario di quello che stanno facendo al governo questi signori che stanno lì impelagati in cose ridicole come lo Ius Soli e la legge Fiano. E penso che sarebbe da parte nostra una responsabilità quella di non cogliere questa occasione. Non mi è chiarissima, diciamo, l'obiettivo degli altri, perché di entrambi, sia due di Berlusconi, ecco, che di Salvini. Voglio capire per esempio quali siano la posizione sulle leggi elettorali, perché quando si dice Berlusconi, quando dice che vuole il proporzionale, sostanzialmente sta dicendo che vuole far perdere il centrodestra. Questa è una cosa che bisogna spiegare alla gente, perché sono tecnicismi che però purtroppo da questi tecnicismi derivano i prossimi 5 anni di storia italiana. Noi siamo in un sistema tripolare, ok? Sì. Mediamente i tre poli si equivalgono, poi uno prevarrà chiaramente, ma insomma prevalgono di 5 punti. Quindi, potenzialmente, diciamo, 30, 30, equivalenti. 30-30-30, centro-sinistra, Movimento 5 Stelle, centro-destra, ok? Se tu hai un sistema proporzionale puro, il sistema proporzionale puro fotografa esattamente il risultato. Quindi tu troverai un Parlamento che ha 30-30-30. Ora, come fai a farla una maggioranza? Non la puoi fare, non con quelli che si sono presentati alle elezioni. L'unico modo che avrai di fare una maggioranza è prendere un pezzo da una parte, un pezzo da un'altra, metterli insieme, fare un inciucio e fare un governo, ok? Questo è l'unico scenario che porta il proporzionale. La gente lo deve sapere, proporzionale porta governo Draghi, governo Monti, governo Renzi, governo Letta, governo Gentiloni. Da qui nasce la proposta del governo Salvini Grillo, oppure il governo Salvini Grillo che abbiamo visto finora. Salvini può portare qualunque scenario, ma sicuramente non lo scenario che tu voti, che ne so, Movimento 5 Stelle e ti trovi al governo il Movimento 5 Stelle che fa il governo da solo, o che voti centrodestra e ti trovi al governo centrodestra che fa il governo. Ovazione da parte mia, ma Berlusconi questo non ha mai voluto sentire da un po' di tempo a questa parte, forse Per cui voglio dire, e io non posso non notare che Berlusconi da una parte parla di coalizione, ma dall'altra in teoria le sue posizioni, per esempio sulla legge elettorale, dicono un'altra cosa. Cioè Berlusconi dice faremo il 51%, ma insomma, per quanto io possa essere ottimista, possa tendere a sovrastimarmi, diciamo che è molto difficile, perché ci sia un governo, diciamo, chiaro, coeso, con una proposta che gli italiani hanno votato gente che non si detesta, tu devi fare una legge che abbia un maggioritario. Ma meno nella premessa, ottimo ragionamento, ma è la premessa per non fugare, Oscar, ancora il dubbio che vuole fare il patto. Ti devo con... solo fermare perché abbiamo con la... il PD, con il PD vuole fare il patto col PD, Berlusconi. Io penso, che si tenga aperto questo scenario, ecco. Questo mi pare evidente, per cui per questo dico non ho le idee chiare su che cosa vogliono fare gli altri. Allora, su questa notizia ci fermiamo solo pochi istanti perché abbiamo pubblicità, anche un ascoltatore in linea e addirittura uno che scrive: per Giorgia Meloni lascerei mia moglie, oddio. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. Allora, qui al telefono Oscar Giannino da Milano, la Meloni al telefono, Gio Violanti in studio e anche Michele Santoro attraverso una voce che un ascoltatore ha scritto: ma questo Santoro che parla in modo così arrogante. Beh, insomma, non lo so, non posso rispondere, essere simpatico a tutti, no? Perché è difficile, no? Lo sai. Ma era arrabbiato giustamente perché vuole andare ad Atreju, che inizia ora. Ma io chiedevo, insomma, ribadivo questo all'onorevole Meloni di invitarmi, insomma, almeno per questa... Ma di cosa vuole parlare, Santoro? Ma voglio parlare dei giovani. Ah, dei giovani. Dei giovani. Allora, ma c'è un dibattito dove possiamo infilare Santoro che parli dei giovani in questa festa, onorevole Meloni? Ma sì, ma volendo lo troviamo, ma l'abbiamo trovato anche in qualche altra edizione. Mi pare che anche Santoro sia stato uno dei nostri ospiti nelle ormai... Si è trovato bene. Si è trovato... di Atreju, quindi... voglio dire, è una festa, come si sa, una manifestazione estremamente aperta, alla quale per primi abbiamo cominciato a invitare gli avversari politici, pure in una festa di parte, e poi insomma da lì ci seguirono tutti. Ormai arrivò anche Bertinotti. Sì, Bertinotti fu... Meloni, oggi mi hai convinto, Alessandro Conte deve essere uno di Fratelli d'Italia. Ma perché secondo me le cose bisogna spiegarle. Comunque, intanto Atreju. L'appuntamento è, perché altrimenti parliamo e la gente non sa dove venire, l'appuntamento è dal 22 al 24 di settembre, chiaramente, quindi da questo venerdì a questa domenica, Officine Farneto a Roma, e ci sono 3 giorni di dibattiti. Mi dà la via, scusi, Officine Farneto. Officine Farneto, è il quartiere Flamini. Flamini, ma non siamo una radio di quartiere, la però, tangenziale, insomma, c'è la tangenziale, bravo, poi si esce via semaforo. Sotto lo stadio olimpico, da venerdì a domenica, insomma, ci sono parecchi dibattiti, cioè parecchi ospiti. Quest'anno il tema della festa è tempo di patrioti, quindi cerchiamo di raccontare l'Italia vista dal punto di vista di quelli che ancora ci credono. Oddio, politica, buongiorno Luca, sono Paolo da Ravenna, anch'io farei la Meloni è splendida, anch'io farei pazzie per lei, ma qui qualche antifascista non c'è. L'altro ascoltatore dice: non sono di Fratelli d'Italia. Sentiamo una telefonata. Pronto, Fabio è in linea. Ciao. Eccoci. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno, saluti a tutti quanti. Volevo fare una domanda a Giorgia Meloni. Io ho la famiglia a Roma, vivo a Milano, ma mi sdoppio fra Roma e Milano. E mi riferisco alle ultime elezioni amministrative. Io confesso che, pur avendo una diversa sensibilità politica, mi mangio le mani pensando al nostro attuale sindaco, e confesso che tornando indietro voterei per Giorgia Meloni piuttosto che per Roberto Giachetti. Ho solo una domanda per l'onorevole Meloni: c'è qualcosa che cambierebbe tornando indietro diciamo nell'ottica delle amministrative, se c'è qualcosa che l'ha lasciata perplessa? Se potesse fare questo giochino e tornare indietro, cosa aggiusterebbe per non lasciare Roma in mano ai 5 Stelle e nella condizione attuale? Ma lei è di un'altra sensibilità politica, cioè non di destra? No, assolutamente progressista e di centrosinistra, ma confesso che nutro un senso di stima per Giorgia Meloni, oggettivamente. E qua, vabbè. Prego. Grazie, voglio tranquillizzare il nostro radioascoltatore che non è diciamo un marziano, nel senso che io ricordo che il giorno che sono andata a votare per le amministrative di Roma, un signore mi fermò sulla scala e mi disse: sa qual è la più grande colpa del PD? Aver fatto votare Giorgia Meloni alla gente di sinistra. Quindi credo che ce ne sia stato qualcuno, diciamo, che si fece convincere. Ma io, chiaramente, tutti dicono, se potessi tornare indietro, tutti dicono che io ho sbagliato perché ci ho messo troppo ad annunciare la candidatura, e in effetti questo fu diciamo poi uno degli errori, anche se non siate così ottimisti, nel senso che se anche io avessi annunciato prima la mia candidatura, non sono così certa che gli alleati mi avrebbero sostenuto a braccia aperte. Diciamo. Ecco, insomma, diciamo che conosco bene la storia, meglio chiaramente di tutti gli altri per averla vissuta, però non posso neanche flagellarmi per aver fatto questo ritardo, perché voi sapete che era dovuto a una questione molto personale e molto complessa. Ma certo, la gravidanza. Oscar. La gravidanza, e quindi ho perso un po' di tempo, ma non mi posso flagellare per questo, e dopo 40 anni, diciamo per due mesi, ho avuto un dubbio, per cui è difficile cambiare qualcosa, obiettivamente. Io però, siccome vedo che Teresa è molto perplesso dal fascino che esercita. No, ma è un coro. La riduce all'antifascismo, cioè, è una roba preistorico. Sì, ma rimasto solo Teresa e Piano a parlare di queste cose. Perché se gli togli questo, loro poi vabbè. Non hanno detto più. No, io torno sulla questione, mi metto nei panni dell'elettore che non era più andato a votare di centrodestra, diciamo così, deluso dalle cose post 2011, però sente lei e dice, non ho capito, scusi, mi rispieghi, se si va a votare con questa legge elettorale così, che è la cosa più probabile oggi, anche se dicono Quirinale forse vorrebbe far cambiare, un po' sorrido, ma comunque, se si va con questa, alla fine... A oggi lei fa la sua lista e poi si vede, fate un accordo ciascuno con liste diverse, cioè lei alla fine, se domani va a un tavolo con gli altri due, che gli dice a quelli? Allora, se dipende da me, io credo che noi si debba fare qualunque cosa possibile per vincere, per non fare esattamente quello che cioè? Accade a Roma, per tornare a... Quindi se la legge fosse questa, io penso che la valutazione di una legge, di una lista unica andrebbe assolutamente fatta. Lista. E non vuol dire fare un partito unico, attenzione, vuol dire chiaramente adeguarsi alla legge che c'è. Ma se c'è una legge che dice che il premio di maggioranza lo prende la lista e tu hai altri due competitori che corrono per prendere il premio di maggioranza con la lista, che sono PD e 5 Stelle, secondo me, atteso che nei sondaggi sei primo, devi fare la lista. Poi io penso che la legge elettorale noi dovremmo fare una proposta comune per modificarla, per chiedere un premio di coalizione e quindi poter avere un premio che non è legato alla singola lista, perché neanche a me francamente appassiona l'idea di fare una lista unica in questa situazione. Preferirei poter correre con la lista del mio partito in un quadro nel quale il premio di maggioranza ce l'ha la coalizione, quindi tutti insieme concorriamo per il premio di maggioranza. Mi pare che gli altri anche qui non vadano nella stessa indicazione. Ho visto sia Salvini che Berlusconi dire che la lista unica, insomma, non ci sono le condizioni per farla. Per carità, le condizioni sicuramente si devono ancora creare, però dire che andiamo in ordine sparso con una legge che dice che c'è un premio maggioranza alla lista, secondo me, insomma, è molto rischioso. Ecco, quindi io sarei per fare un altro tipo di ragionamento. Dopodiché, insisto, ci sono dei tavoli del centrodestra, poi mi dispiace che parliamo sempre di legge elettorale perché secondo me la gente non si appassiona giustamente alla materia. Ci sono dei tavoli, eccetera. Io ho portato la mia proposta. La mia proposta è due cose. Premio di maggioranza, perché il governo lo devono scegliere gli italiani. Comunque chi governa lo devono scegliere gli italiani. E preferenze. Perché l'altra cosa, scusatemi, che bisogna dire proprio con forza. Ma io su questo sono d'accordissimo al 2000 per 1000. Vergogna che dopo che per anni sono venuti tutte le forze politiche in televisione a dire che era uno schifo le leggi, le liste bloccate, i parlamentari nominati e che i partiti facevano del Parlamento carne di porco, adesso si stanno rimettendo tutti d'accordo per una legge che prevede le liste bloccate. Ma sai che i capilista bloccati ai segretari di partito, poi alla fine quelli grandi piacciono. Ho capito, Oscar, però cioè, puoi vedere che la scrive Fiano, allora segnali a Emanuele Fiano che anche nel fascismo c'erano le liste bloccate. Qualcuno glielo segnali a Emanuele Fiano, che rischia di incappare nella sua legge Fiano, di farsi due anni di galera. Senta, abbiamo letto di questa offerta generosa alla Lega, siamo pronti a prestargli dei soldi, ma quanti, come, in che modo? Cioè, è una cosa... perché è una cosa interessante, perché sul Corriere c'è scritto che data l'ordinanza di sequestro c'è il rischio che voi glieli prestate e vengano sequestrati anche quelli, cioè euro che entra sui conti correnti viene pignorato. Sì, vabbè, insomma, chiaramente poi adesso concretamente io non lo so, io volevo dare un segnale concreto della nostra solidarietà alla Lega di Matteo Salvini, lo dico, guardi, sinceramente, al di là dei nostri rapporti, chiaramente, di alleanza, perché quando metti i freni alla democrazia sai dove comincia e non sai dove finisce, è sempre un tema molto molto molto delicato. Allora dire che un partito politico dopo una sentenza di primo grado, quindi non sentenza di condanna passata in giudicato, ok? Gli vengono bloccati i fondi a 5 mesi da una campagna elettorale, quando si sa che la responsabilità penale è personale. Quindi tu che blocchi certo. un partito politico su una condanna a una persona o a due persone, in teoria la Lega è parte offesa. Ma scusate, cioè, c'è il caso di Lusi, non hanno sequestrato i soldi al PD, tutti i soldi del PD nel caso di Lusi, questo è il problema, che era il tesoriere, lo ricordiamo, del Partito Democratico, accusato di aver sottratto 27 milioni credo di euro. Però spieghiamo chi è a casa, sì, sennò facciamo casino. In quel caso il giudice ha ritenuto e stabilito che il tesoriere avesse aggirato lo stesso segretario e quindi il partito non ne sapesse nulla. In questo caso c'è l'errata rendicontazione di cui ha responsabilità il segretario del partito, perché il giudice dice il tesoriere, d'accordo col segretario del partito, ha utilizzato i fondi per fini diversi da quelli definiti nella legge dei contributi e hanno anche falsificato il rendiconto. Ecco, questo dal punto di vista giuridico. Ma equivarrebbe a dire, Oscar, equivarrebbe a dire che tutti gli iscritti del partito lo sapevano. Perché oggi il no, ma io su questo sono d'accordo con lei nel dire che ci vorrebbe una legge in questo una caso. Una persona ha sbagliato, questo è il tema. Secondo me i magistrati su questa cosa chiaramente rischiano di aprire un precedente che è oggettivamente pericoloso. Cioè, e io mi aspetto che anche gli altri partiti dicano qualcosa. Perché invece, come ha visto, oggi a me, domani a te. Esatto, no, i partiti, se viene colpito un altro, dicono che se viene colpito se stesso, dice che la rivoluzione. Finché i partiti non capiranno. Oggi per la Lega, come lo dicevo, il Movimento Sociale Italiano per il Partito Radicale. Gliene do atto. Il problema è che fino a che i partiti non capiscono che l'articolo 49 per loro, come il 39 per i sindacati, impone una legge, perché se si resta un'associazione semplicemente d'accordo. Riconosciuta come una bocciofila, alla fine ne ho anche presentate alcune. Alla fine, esatto, lo so, e per questo lo dico, perché altrimenti il giudice fa un po' a pifro. Ci vuole una legge. Diventa una roba discrezionale, però che ci sia, diciamo, che dia l'immagine di una sentenza un po' punitiva, questo ce lo dobbiamo dire. Per cui io vorrei tanto che anche altri partiti, che pure magari detestano la Lega dei Salvini perché non condividono la parola di quello che dice, comunque dicano alt signori, alt, i partiti non essere. Allora facciamo subito il test con la Meloni. Cosa pensa della sospensione della candidatura di Cancelleri, candidato in Sicilia per il Movimento 5 Stelle? Ma guardi, allora, questa vicenda che io ho seguito poco, perché queste vicende interne dell'organizzazione del Movimento 5 Stelle mi sono sempre abbastanza astruse. Diciamo che sono fiduciosa del fatto che, Cancelleri o no, il centrodestra in Sicilia possa vincere con Nello Musumeci, che mi pare ad oggi la candidatura più autorevole in campo, la più credibile, la più capace, perché Nello non è solamente onesto, abbiamo tentato di spiegare tante volte che l'onestà è un prerequisito della politica, non è il requisito. Do per scontato che tu sia onesto se vuoi fare politica, dopodiché però il requisito è la capacità e la competenza, e Nello Musumeci è oggettivamente una delle poche persone dell'attuale sistema politico che hanno alle spalle un importante percorso politico che proprio non è mai stato neanche lontanamente macchiato e che ce lo consegna oggi così stimato da essere stato nella precedente legislatura all'Assemblea regionale siciliana eletto alla presidenza della commissione antimafia all'unanimità, cioè anche con i voti dei 5 Stelle. Significa che anche i 5 Stelle, se devono affidare a qualcuno la lotta alla mafia in Sicilia, l'affidano a Nello Musumeci. Domanda per la Meloni di un ascoltatore: cosa pensa della Sicilia? Non crede che si tratti di una regione fallita economicamente, ovviamente? Beh, io dico che la situazione economica della Sicilia non sia facile, questo lo sappiamo bene, che ci sia, diciamo, l'orlo del dissesto, lo sappiamo anche questo, che Crocetta ha rappresentato un colpo di grazia per la regione siciliana, purtroppo è vero. Dico appunto ai siciliani: attenzione stavolta, ecco, lo dico soprattutto in riferimento al voto del Movimento 5 Stelle, lo dico da cittadina romana, come era cittadino romano il signore che ha chiamato prima pentendosi di aver votato da un'altra parte. Salvatevi. Bene. Un ascoltatore che abbiamo fatto noi a Roma. Un ascoltatore, Ezio. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno. Una cosa velocissima sulla vicenda della Lega. 500.000 euro danno accertato. Si capisce 50 milioni falsi, 48 milioni 970 mila euro sequestrati. Sequestrati, ma se ne hanno trovati soltanto 1,5 milioni, gli altri li hanno sperperati? Faccio un paragone, diciamo, che potrebbe essere capito dalle persone come me. Prendo una multa da 100 euro, mi trovano sul conto corrente 500 euro e mi mettono sotto sequestro la casa. C'è qualcosa che non torna. No, guardate, però, questo io anche... salutiamo intanto Giorgia Meloni, grazie. Oscar, prego. No, dico anche sulle cose che non mi convincono, il nostro mestiere di giornalisti è essere precisi, è questo. Siccome l'entità del rimborso complessivo era di 56 milioni di rotte, ma 56 milioni di rotte è l'esborso complessivo non in quella tranche, perché no, gli piacerebbe alla Lega avere tutti quei soldi della Lega, ed è stato usato e rendicontato in senso improprio in questo, il Parlamento, in quella cifra che diceva il nostro ascoltatore, molto più limitata, però il Parlamento ha chiesto a titolo risarcitorio l'equivalente, e il giudice, prima ancora di entrare nel merito, dice: io intanto appuro che ci sia l'equivalente 49 invece che 56 sui conti. Dal punto di vista del diritto potrà sembrare lambiccato, ma funziona un po' così. Il giudice è stato molto di manica larga, diciamo anche agli ascoltatori che da Tribunale dei Medici di Genova intanto si sta facendo avanti l'immediato buon senso, perché avrà telefonato qualcuno dalle istituzioni e hanno detto: vabbè, vediamo cosa ci date in garanzia e vi leviamo il blocco dei conti, che è la cosa più ragionevole che c'era da fare sin dall'inizio. Allora, Giuseppe Civati, buongiorno, benvenuto. Abbiamo appena salutato la Meloni, con lui invece discutiamo delle rogne del centrosinistra, con la sintesi un po' divertente che ieri abbiamo sentito da Floris, fatta da Mario Giordano. Questa gente che sta lì spersa nel bosco e si vede arrivare questo carrozzone di persone che un giorno sono vicini, un giorno sono lontani, e poi discuto e Pisapia, ci vogliamo bene ma non ci vogliamo abbastanza bene, e poi il giorno tubano, il giorno dopo litigano e si riavvicinano e si incontrano, e sembra Romino Albano sui romanzi di settimanale popolari, no? Poi dopodiché gli dici: ma lei che cosa gli dice? E Bersani risponde: gli dico che con la cosa rossa non si vince. Però era Mario Giordano, secondo cui il minuetto fra Pisapia e Bersani, o diciamo il resto della sinistra, di cui fa parte anche Civati, sembra la storia d'amore fra Albano e Romina. Buongiorno Civati. Buongiorno a voi. Come la racconterebbe lei? Ma ha ragione Giordano, bisogna no. Dare seguito alle cose che sono state confuse quest'estate, al continui ping pong, ai rimbalzi, all'atteggiamento equivoco, a volte opaco, impreciso, insomma bisogna iniziare a costruire questo percorso con le persone, poi, perché come diceva Giordano ci si parla addosso, no? Tra piccoli o grandi leader del presente o del passato, e non si fa un passo in avanti, insomma, consistente, che secondo me c'è bisogno sia di farlo sia di rappresentarlo in modo chiaro. Assolutamente sì, Oscar. Civati, che bisogna farlo in modo chiaro, ci dà un'indicazione per gli ascoltatori, cioè con chi sì, con chi no e perché? Ma secondo me bisogna che ci si veda intanto, perché per ora tutti questi Albano e Romina si sono trovati separatamente, quasi furtivamente, di nascosto, nottetempo. C'è bisogno di fare una riunione tra quelli che stanno in Parlamento e che diano però l'avvio a un processo democratico a cui possano partecipare tutti, nelle città, nelle province. Con chi? Con Sinistra Italiana, con MDP, con Pisapia, se ha risolto le sue, come dire, questioni politiche personali un po' alla Crozza, lo dico con un sorriso perché mi pare che l'invitazione di Crozza sia formidabile, e si vada a definire un campo, insomma una posizione a sinistra, ma insomma anche magari parlando di qualcosa da fare. Però se lo dice lei è un'imitazione, che dice che Pisapia dice un giorno una cosa un giorno un'altra, è molto feroce. No, è feroce l'imitazione, intendo dire che però se Pisapia prende una decisione rispetto a quello che vuole fare è utile a tutti, sia a noi sia al PD, così almeno abbiamo definito con chi si sta e con chi ci si allea o no, insomma questo è il punto. Ripeto, bisognerebbe incominciare a dire qualche cosa, per esempio oggi è il 20 settembre, a me piacerebbe che fosse uno schieramento laico. Domanda di un ascoltatore, firmatevi con il nome proprio, 800240024 per chiamare, 349-238-6666, domanda per Civati: ma cosa pensa di quella Civati, di quella porcheria del Jobs Act? Beh, io ho votato contro, fummo in due nel Partito Democratico allora a votare contro, altri uscirono dall'aula e tutti quelli che erano critici verso il Jobs Act si ritrovano insieme, appunto. Quando si parla di cose è più semplice definire un perimetro, mettiamola così. Sentiamolo allora quel Pisapia Croziano, l'avevamo già sentito ma non si fa mai troppo. Buonasera Pisapia, Bersani ha detto che sarà lei il leader di tutta la sinistra. Sì, adesso dovrebbe essere così, vediamo che cosa si può fare. Perché in questo caso dovrebbe tenere insieme D'Alema che odia Renzi, Bersani che odia Renzi, Civati che odia Renzi. Minchia. Tutta gente che ha votato no al referendum, mentre lei ha votato sì, giusto? Ah, minchia, è vero. Sì. Ma lei dopo le elezioni dovrà allearsi con Renzi. Minchia, sì. Quindi lei vuole mettere insieme tutti quelli che odiano Renzi per poi allearsi con Renzi? Oh, minchia. E come si chiamerà questa formazione di sinistra? Non lo so, a sto punto minchia. Come si chiamerà, Civati? Beh, non minchia, ecco, dovrei dare un messaggio di speranza agli elettori. Però, insomma, l'imitazione è cattiva, dopodiché davvero bisogna superare questo clima da fotoromanzo, come è stato detto, da Game of Thrones, perché uno si capisce, sono sigle spesso sconosciute ai più. Ci si trovi domani, si faccia un percorso, un programma molto semplice di un'assemblea, non lo so, insomma, l'importante è dare l'idea che sia qualcosa che decidano i cittadini, non noi quattro a Roma nascostamente. Grazie a Pippo Civati, leader di Possibile. Caro Oscar, adesso veniamo a noi cani e gatti. So che litigheremo oggi sul Sole, a pagina 2. Mi hai pensato quando hai letto a pagina 2 che la sanzione per la mancata esibizione del POS dei liberi professionisti è 30 euro? Perché ti avrei dovuto pensare, scusa? No, perché io so che tu sei contro il POS, perché pensi che sia un attentato alla libertà, ai contanti. Invece devono mettere una sanzione seria. Se una vecchina va a farsi la dentiera e deve spendere 3.000 euro, non è che può girare con la malloppa di soldi, con il pacco, deve poter pagare con un POS. Guarda, ti aggiorno perché siccome sei troppo, passi troppe ore ad ascoltare gli imitatori, ti aggiorno, le cose serie sono queste. Chi vuole estendere i pagamenti elettronici nel nostro paese si divide in due campi: chi crede di poterlo fare col solito metodo della coazione e chi invece è contrario alla coazione ed è favorevole alla libertà. Allora, ma che vuol dire la libertà? La libertà è una cosa che è sconosciuta a voi statalisti, però sì, viene prima. Ma non iniziare a delirare, cosa c'entra statalista? Inizia a delirare, inizia a rispettarmi, punto uno. Se no litighiamo davvero, però non con questi termini. Allora, va in un ambulatorio e la questione... Non è che forse può pagare. Non è che forse può pagare. Allora, il problema per te è la sanzione per cosa? Spiega. Il problema è che in tutti i posti del mondo si può pagare col denaro liquido. Sì. In Italia, come sai, c'è la più alta circolazione di denaro contante d'Europa, esatto. Perché c'è un ritardo. L'obiezione anche a chi danno come delle commissioni te, folli. Non conoscendo le cose, dice mettiamo l'obbligo e alziamo la sanzione. L'obiezione delle persone ragionevoli che vuole estendere i pagamenti elettronici è dobbiamo lavorare per diminuire l'imposizione da parte dei gestori sull'esercente, cioè su chi si deve fare pagare. Io voglio che la becchina, come dici tu, sia libera di pagare in tutti i modi, liquido, contante, assegno vecchio e elettronico. No, sono contrario a far pagare a quel punto a chi deve incassare il 7%, il 5% su chi gestisce. Allora, facciamo diciamolo questo, al contrario. Facciamo obbligo questo del POS invece di pensare alle stupide grida manzoniane delle stangate che ci avete in mente voi poveri statalisti del passato. Però lo capisco, una vecchia è una lotta vecchia lotta all'evasione, non statalismo. Lotta all'evasione in nome di uno Stato ladro. Sul Sole 24 Ore così. Ma i colleghi del Sole 24 Ore, sai, non è che sono la Bibbia, No, dico per capire qual è lo scenario in cui si muove. Grazie questa polemica. Grazie dell'indicazione, ciao. Ciao. Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Vi ha presentato 24 Mattino.